Vento sopra il mare, è ora di mangiare. Vento va di fretta e la pappa aspetta. Vento marinaio, dondola il cucchiaio. Trova la bocca, soffia se scotta. Vento leggero, entra il veliero, dentro la bocca, col vento in poppa. Vento sopra il grano, prendo con la mano. Vento dal molo, mangio da solo. Vento di mollica, stringo con le dita. Vento di colori, assaggio i sapori. Vento dispettoso, bevo acqua e mi riposo. Vento profumato, che buona! Quanta pappa ho mangiato!